Senta. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Torneremo su un tema che ieri abbiamo lasciato appeso, cioè il dato che oggi viene confortato anche da altri elementi sull'andamento della stagione turistica nel nostro paese. Questo nel giorno in cui l'Istat, adesso lo ricorderò, diffonde non altri dati, sostanzialmente conferma quanto era uscito soprattutto la scorsa settimana. Mi riferisco al fatto che l'economia italiana stia accelerando, sostenuta da una crescita diffusa tra i settori produttivi, cito testualmente l'Istat, e dall'aumento dell'occupazione, anche se anche l'Istat fa notare come questa occupazione, quella registrata in luglio, è dovuta soprattutto a chi ha più di 50 anni, perché è fermo il dato nella classe 35-49 anni, però aumentano anche altre categorie, torna a crescere il lavoro autonomo e gli occupati indipendenti, come si chiamano in gergo, 17.000 in più. Il Ministero dell'Economia e Finanze fa notare che nel periodo gennaio-luglio le entrate tributarie accertate ammontano a 247 miliardi e 800 milioni di euro, segnando un incremento di 3 miliardi rispetto allo stesso periodo, più 1,6%. Senza il canone RAI sarebbe stato dell'1,2% l'incremento. Di questo parleremo in apertura, e poi anche la borsa, e per quello che riguarda la borsa un ritorno, visto che Pirelli ha presentato formalmente domanda di ammissione alla quotazione alla borsa italiana. Dopodiché ci occuperemo, con un taglio di carattere geopolitico, ma con ovviamente anche un'attenzione alla parte economica, di quello che sta continuando a capitare in Nord Corea. Devo dire che su questo fronte c'è molto nervosismo, ma per quello che vediamo in Europa prevale l'attesa sulla Banca Centrale Europea di giovedì, più che un ragionamento emotivo, quasi da panico, come l'abbiamo visto la settimana scorsa dopo il primo lancio che ha inaugurato, mettiamola così, il nuovo capitolo delle tensioni tra Nord Corea e ormai il resto del mondo, visto che anche la Russia parla in maniera molto allarmata di un conflitto che può portare alla catastrofe. E il ministro della difesa francese Florence Parly oggi ha detto che i missili nordcoreani potrebbero essere in grado di raggiungere l'Europa prima del previsto. Lo scenario di un'escalation verso un grande conflitto non può essere scartato. Da quello che vediamo, gli investitori continuano sia a cautelarsi. Faccio un esempio: il bene rifugio per eccellenza, che è l'oro, oggi è leggermente cresciuto dallo 0,30 a $1,335 l'once, il livello più alto da settembre 2016. Dall'inizio luglio l'oro ha guadagnato il 10%, da qui a parlare di un effetto così a catena, un effetto domino sui beni rifugio, ce ne corre, ripeto, siamo a $1,335, l'oro non li vedeva da settembre 2016, ma non siamo a record da anni e anni e anni sul prezzo dell'oro. C'è comunque una pressione sulle commodities, che riguarda anche nickel e rame, rispettivamente ai massimi dal 2015 al 2014. Il palladio è ai massimi da 16 anni, per chi volesse saperlo, vale $995 l'oncia. L'argento quota $17,92 l'oncia. E appunto il platino è anch'esso ai massimi da 6 mesi. Cioè, insomma, c'è una tendenza di fondo, non ancora di corsa al bene rifugio, tant'è che le borse, per quello che riguarda Milano, perde lo 0,30%, Parigi lo 0,70%, Francoforte più 0,20%, torna aperta Wall Street, ieri chiusa per il Labor Day, meno 0,70% New York, Londra meno 0,50%. I titoli: Tenaris più 3,60, Saipem più 3,40, Snam più 1,5 come Hugh Santa Portè, l'1% lo guadagna Brembo, lo 0,80 è il rialzo di Campari e di Buzzi Unice Medieni, ma anche di Mediaset, e lo 0,70 lo guadagna Moncler, nonché Ferrari. Chi perde oggi? Un po' di pressione sulle banche: UbiBanca meno 2, UniCredit meno 1,90, Banco BPM meno 1,70, BPerBanca meno 1,70, Mediobanca meno 1,30 come Fineco, Banca Generali meno 1% come Intesa San Paolo, Italgas e Unipol Sai, e anche Unipol e Telecom Italia. Parleremo appunto a lungo di borsa, anche appunto per il rientro formalizzato oggi, non ancora eseguito, di Pirelli. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e come sempre la diretta del programma per chi volesse guardarla, e anche video sulla pagina Facebook di Focus Economia e della radio. Andiamo rapidamente alle notizie in breve. Allora, al di là dei dati italiani e del tema commodity, materie prime che ho già ricordato, e gli allarmi lanciati da vari paesi, oggi, tornando all'Italia, andando sui singoli settori produttivi, fra poco parleremo del turismo e anche del sistema aeroportuale. A questo proposito, Air France si è sfilata definitivamente da un'ipotesi di interessamento per Alitalia. Ha detto infatti il numero uno Jean-Marc Janillac in un'intervista a Les Echos, ha detto insomma: escludiamo ogni interesse ad acquisire l'Italia, sia come intera compagnia sia come alcune sue attività, e per gli stessi motivi escludiamo ogni interesse anche per Air Berlin, che è l'altra società di Etihad in difficoltà, quella su cui il governo tedesco ieri ha chiesto un prestito ponte di 150 ha offerto ha dato via libera a un prestito ponte di 150 milioni. E sui settori produttivi, oggi presentato il 57esimo Salone Nautico, che si terrà a Genova dal 21 al 27 settembre prossimi. Tra l'altro Radio 24, come avviene ogni anno con il Salone Nautico, sarà presente con dirette di vari programmi nel corso di quelle giornate da Genova. Presentato oggi il 57esimo Salone Nautico, al microfono il nostro Andrea Ferro, il presidente dell'Ucina, di chi organizza il Salone, Carla De Maria. I numeri sono tutti in crescita, ma in crescita significativa. E questo lo dobbiamo a diversi fattori, questo lo possiamo dire tranquillamente, sarà un grandissimo salone. E intanto voglio ancora ripeterlo anche ai vostri microfoni, l'aria nuova, questo rapporto assolutamente ribaltato con le istituzioni ci ha aiutato ad organizzarlo meglio, ma non siamo stati solo noi le istituzioni, questo sarà un grande salone perché il mercato è in ripresa, conferma la sua ripresa, peraltro già vista l'anno scorso, ma era cresciuta con una doppia cifra, temevamo che non potesse non essere così lo slancio ancora, e invece cresce addirittura più dello scorso anno, e i dati li daremo in tutta l'evidenza e dettaglio al salone, e quindi credo un'edizione speciale. Ed è bello che sia speciale l'edizione dedicata a Carlo Riva. Lo ripeto, l'ho detto in conferenza, gli imprenditori fanno il loro mestiere, questo salone è ritornato ad essere di enorme interesse, quindi tornano a fare il loro business, ed è legato immediatamente al discorso che facevamo prima, cresce a due cifre il mercato italiano, tornano, e tornano anche, devo dire, con numero di barche o accessori, o dipende dal tipo di segmento, piuttosto importante. Non è un timido ritorno. È cambiato anche l'atteggiamento un po' della politica rispetto a chi va per mare, la nautica in generale, rispetto ad anni un po' difficili sotto questo profilo? È cambiato, devo dire che l'accelerazione fatta dalle istituzioni locali è superiore all'accelerazione dell'esecutivo e a livello nazionale. Come sapete, l'avevamo detto, Ucina, in quanto Confindustria Nautica, ha lavorato ai 12 tavoli, era l'unica accreditata ai 12 tavoli tecnici della riforma della legge per la nautica. Abbiamo dovuto lavorare ancora duro perché manca conoscenza e i processi farraginosi, ingessati, fanno sì che sia ancora un lavoro complesso, ma è vero che l'atteggiamento si è modificato. E allora, sempre sull'Italia, oggi chiudiamo la parte delle notizie in breve sui conti che riguardano il Sole 24 Ore, perché oggi il gruppo che è quotato in borsa ha presentato la semestrale, ha chiuso il primo semestre dell'anno con una perdita di 45 milioni di euro, ma al netto degli oneri non ricorrenti, pari a 21 milioni di euro, il risultato è in miglioramento di 8,9 milioni, passando da una perdita di 23 milioni e 600 mila euro a una perdita di 14 milioni e 700 mila euro. Questo per quello che riguarda il Sole 24 Ore, quindi il gruppo che è proprietario anche della radio che state ascoltando. Adesso andiamo sul primo tema, turismo, con un dato ulteriore che è uscito oggi e riguarda l'andamento anche del sistema aeroportuale italiano. Lo dico subito perché a luglio negli aeroporti italiani sono transitati 19 milioni di passeggeri, è il 7% in più rispetto a luglio del 2016, e comunque nei primi 7 mesi dell'anno la crescita dei passeggeri transitati dagli aeroporti italiani è stata del 7% in più, un dato molto importante, pari a quasi 100 milioni di passeggeri. Quelli che hanno avuto gli incrementi migliori nel mese di luglio sono stati gli aeroporti di Bologna, Cagliari, Palermo, mentre Roma, aeroporto di Roma, si conferma come il primo scalo italiano, e complessivamente a luglio nei due scali romani sono transitati 4 milioni 800 mila passeggeri, di cui 4 milioni 300 mila solo a Fiumicino. A conferma questi dati che si è trattato di un'estate record, in questo caso non tanto per le temperature, il caldo e la siccità. Un 1.900.000 arrivi in più, così il dato di Confesercenti Assoturismo, in aumento di oltre 7.600.000 pernottamenti, più 4%, oltre 2 milioni gli arrivi in più, più 4%. E infatti sono stati 24 milioni gli arrivi complessivi, più 2,4% per quello che riguarda gli arrivi italiani, cioè i turisti italiani, e 112 milioni le presenze di italiani, anche in questo caso più 2,2%. Il dato è ancora più forte se guardiamo arrivi e presenze degli stranieri, sono 24 milioni quasi gli stranieri, cioè gli arrivi internazionali, più 6% sul 2016, per un totale di 95 milioni e mezzo di pernottamenti, più 5,5%. E tra i mercati in sensibile aumento si segnala soprattutto quello tedesco, seguito da quello svizzero, olandese, belga, francese e i paesi dell'est. L'aumento invece è più contenuto, più leggero per Austria, Spagna, Gran Bretagna, Cina e Brasile. Stabile il dato invece per Scandinavia, Stati Uniti, Russi, Canada e India. Ma c'è un altro dato che mi sembra significativo, ed è la distribuzione di questi flussi di turisti stranieri in primis, ma anche italiani. Grazie al presidente di Assoted Confesercenti Nazionale, Filippo Donati. Buonasera. Sì, buonasera, buonasera a lei, buonasera a voi. Dicevo, è la distribuzione, oltre che l'incremento complessivo che va bene, è la distribuzione di questi arrivi, che il nord-est ha segnato il risultato migliore, più 4,7%, con un forte aumento della domanda straniera, più 6,6%. Sì. Bene anche il nord-ovest, più 4% e più 5,6% gli stranieri, più 4% comunque anche il sud delle isole, con un più 6% di stranieri. Non era scontato. Le difficoltà ovviamente sono purtroppo per le regioni colpite dal terremoto l'anno scorso, e quindi Abruzzo, Umbria e Lazio, che hanno avuto purtroppo solo sì, un aumento dell'1%. Ma al di là della distribuzione geografica, ho capito bene, ma a livello di località tutte sono cresciute, mentre gli anni scorsi vedevamo andare bene le città d'arte, ma avere maggiori difficoltà la parte mare e anche delle volte terme, laghi e montagna. Beh, dunque, l'anno scorso sicuramente ci sono state maggiori difficoltà. Quest'anno, secondo noi, chiaramente queste difficoltà non si sono sviluppate e c'è stato un aumento più o meno stabile, però molto positivo in tutte le destinazioni, quindi sia le località marine che quelle lacuali. L'unico dato a segnare così un minimo, diciamo, di segno meno sono le località termali, però è un meno davvero molto leggero. Chiaramente questo può dipendere da questioni sicuramente meteorologiche, ma anche, bisogna dirlo, bisogna tenerla presente questo dato, le tensioni comunque geopolitiche che hanno penalizzato tutta la parte sud-est del bacino del Mediterraneo, quindi favorendo di fatto poi le nostre destinazioni marittime, marine. E su questo devo dire che anche il sud ha avuto dei dati molto gratificanti, appunto più 5,7%, lo batte solo il nord-est come arrivo degli stranieri. Dico gli stranieri, mi concentro sugli stranieri perché è più immaginabile che un italiano conosca le bellezze e anche tutti i giacimenti turistici non sfruttati del certo. Sud. Prego. È stato molto interessante anche che gli italiani abbiano riscoperto la vacanza domestica, cioè il rimanere nel proprio paese e magari scoprire parti del proprio paese che non hanno nulla da invidiare con i paradisi tropicali piuttosto che con altre destinazioni più distanti. Ecco, abbiamo tutto a portata di mano, e questo probabilmente quest'anno, i dati statistici di quest'anno ne sono una significativa dimostrazione. La riscoperta degli stranieri da parte degli stranieri del nostro paese gratifica di fatto gli sforzi che stiamo facendo noi imprenditori, che stanno facendo le regioni nel migliorare il loro sistema di accoglienza e comunque di infrastrutturale, e anche diciamo lo sforzo che è stato fatto anche dall'intero sistema paese, incluso anche la parte politica, assolutamente. Allora, da questo punto di vista, il timore che avevamo avuto a inizio stagione è il seguente. Presidente, benissimo che per colpa del terrorismo, diciamola tutta, perché sappiamo che le preoccupazioni su tante destinazioni, Nord Africa in primis, Medio Oriente, sì, ma non solo, hanno portato italiani e stranieri a riscoprire l'Italia. La preoccupazione era questa: siccome stiamo sfruttando un'occasione drammatica, se vuoi anche in maniera cinica, ma unica, o almeno ci auguriamo unica, sì. È il nostro dovere massimizzare. Ecco, se tu vieni in Italia è una brutta esperienza. Questo giro ce la siamo giocati per non so quanti anni, lo straniero. Assolutamente sì. Allora, assolutamente che sforzo sì. Lei concreto ha visto nelle informazioni? Perché io ancora noto che si viaggia abbastanza in ordine sparso. Quando uno cerca di prenotare un albergo, i siti sono fatti ancora le stelle, sappiamo, la solita polemica sulle stelle su base regionale. Ma lei che sforzo ha notato nei suoi associati? O che sforzi ha notato? Beh, moltissimi di noi hanno rinnovato il loro prodotto, hanno rinnovato proprio il prodotto hard, quindi l'hardware, quindi l'albergo piuttosto che lo stabilimento balneare, nonostante la spada di Damocle della Bolkestein che diciamo un pochino scoraggia, avrebbe dovuto scoraggiare gli investimenti. C'è questa sensazione diffusa che questo paese in fondo piaccia, ed è una sensazione diffusa convinta. Non si può non investire nel sistema Italia lasciando indietro il prodotto Italia, quindi ci stiamo credendo un po' tutti, istituzioni e imprenditori. Stiamo viaggiando cercando di trasmetterci informazioni, di prendere decisioni importanti, perché è un settore molto complicato, molto composito, e questi probabilmente, ovviamente, insieme all'aiuto che abbiamo avuto, ahimè, da quella purtroppo grave situazione di ordine pubblico, comunque di sicurezza che c'è in quella zona del Mediterraneo, noi abbiamo avuto questi numeri. È chiaro che spetta a noi adesso massimizzare il risultato. Come? Continuando ad infrastrutturare il paese per accogliere persone, perché le persone devi riuscire a farle andare nei posti se vogliono andare a visitare posti, e quindi devono avere la possibilità di andarci, automobile, treno, aereo, quindi benissimo il dato che ho sentito dare da lei prima degli aeroporti, quindi costruire infrastrutture che, diciamo, con una filosofia di processo, non tanto di funzione, quindi che facciano parte comunque di un unico processo di questa filiera lunghissima, che è quella del turismo, che interessa una marea di aziende. Magari viene da pensare solamente all'albergo, allo stabilimento balneare, ma c'è tutta una serie di aziende che forniscono poi i fornitori finali del servizio e coinvolge veramente milioni di lavoratori, migliaia di imprese. Quindi noi dobbiamo strutturarci, avere il coraggio, avere la forza, rimanere saldi sulle gambe, chiaramente aiutare magari chi sta investendo o chi sta assumendo, perché poi non dimentichiamoci che il turismo utilizza moltissima manodopera, è uno dei più grandi utilizzatori come settore di manodopera, quindi è fondamentale magari anche, soprattutto io vedo il dato del sud, che a me fa un grandissimo piacere, perché comunque significa lavoro, creare posti di lavoro. Riuscissimo a destagionalizzare un attimino quella parte d'Italia, noi avremmo lavoro per più mesi. Io sto pensando a mesi come a settembre-ottobre, che nel nostro sud, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, la stessa Sardegna, la Campania, ci sono ancora delle stagioni. Allora mi faccia dire cosa vedo io che manca per destagionalizzare, che poi vuol dire semplicemente allungare la stagione laddove si può. È chiaro che nel nord questo vantaggio non sempre ce l'hai, ma intere regioni del nostro sud possono fare come fa la Grecia o come fa la Spagna, per non andare troppo in là. Guardi, Presidente, mi sembra che manchi ancora un rapporto di sinergia e coordinato con molte regioni e con il sistema aeroportuale di molte regioni. Io posso decidere quanto voglio di andare in Sicilia, in Calabria, in Puglia, ma se i voli costano, diciamo, prezzi folli e comunque non hanno o vengono cancellati se non dalle città principali, insomma, ho difficoltà poi a raggiungere questi luoghi. E poi anche forse alla capacità vostra come associazione di categoria di dialogare sulle esigenze dei vostri associati con le istituzioni, che possono essere di carattere regionale ma anche di carattere nazionale. Sul sistema aeroportuale sappiamo che addirittura si arriva anche, dipende di chi è l'azionista, ma addirittura si arriva anche a un dialogo con i comuni oltre che con le regioni. Non manca quello che una volta si sarebbe chiamato un tavolo, ma non tanto per fare il tavolo, per essere coordinati su questo? Dunque, di tavoli ce ne sono diversi. Non so, vedevo una banalità, ma ho visto che hanno chiuso non solo l'Italia, ma anche EasyJet, se non ricordo male, chiuderà i voli Malpensa-Roma. Ora, per carità, chi sta a Milano sa benissimo che se sta in città è più comodo Linate, ma Malpensa serve tutto l'Interland del Nord, serve Como, Lecco, Varese, una zona relativamente ricca del paese. Ora, quelle sono probabilmente scelte strategiche loro, che onestamente io avverto sì che c'è sicuramente un riassestamento anche delle tratte e dei voli che vanno in determinate direzioni. Probabilmente loro stanno facendo dei conti che sono sempre più difficili da far quadrare, i conti nelle compagnie aeree, perché vedo che tutti più o meno non navigano in ottime acque, però chiaramente noi dobbiamo servire di più sicuramente la parte quantomeno peninsulare del paese. Sicilia e Sardegna hanno una necessità infrastrutturale spaventosa al loro interno e nei collegamenti con la terraferma. Questo è chiaramente fondamentale. Stessa cosa per i traghetti. Bisognerebbe anche lì avere infoltire, diciamo, nella parte dell'alta stagione, sfruttando ma infrastrutturando, poi si rende appetibile la destinazione anche in periodi di bassa e bassissima stagione. È fondamentale. Sì, per non parlare dei collegamenti, io penso alle isole italiane che sono dei patrimoni, le isole Eolie, le Tremiti, ma insomma provate ad arrivarci. Ci metti una giornata. Voglio dire, ma fai prima arrivare a New York tranquillamente, nel senso non è possibile. Cioè, chiunque voglia andare nelle isole dei vari arcipelaghi italiani ha dei servizi che, ragazzi, ma adesso mi scrive un ascoltatore per metà settembre, per Pescara Milano, due persone 200 euro, volo Ryan stesso biglietto, Milano Amsterdam due persone sempre 200 euro. Capisce, Presidente, che poi uno se deve spendere 200 euro o per andare a Pescara ne spende 200 per andare ad Amsterdam, poi un ragionamento lo fa. Da questo punto di vista, che cosa potreste chiedere non tanto al governo, ma agli enti locali che spesso hanno in mano la gestione anche aeroportuale e infrastrutturale? Ma Guardi, noi intanto chiediamo continuare a stare sul pezzo, nel senso di continuare a dialogare con le parti, a dialogare con le imprese, con gli imprenditori, con i loro rappresentanti, e a portare e a costituire questi momenti di riflessione molto importanti, perché poi alla fine anche il sistema aeroportuale dovrebbe avere una sorta di coordinamento in sé, cosa che purtroppo non c'è di fatto. È anche poi importante come questi aeroporti si collegano con le varie destinazioni alle quali poi loro si riferiscono, quindi anche questo è molto importante. Allora, io vivo in una zona e diciamo il mio aeroporto di riferimento è Bologna, prima lei lo ha citato, è uno di quelli che ha uno degli aumenti maggiori di traffico, ma l'aeroporto di Bologna in questi ultimi anni sta investendo cifre molto importanti per collegare l'aeroporto alla stazione ferroviaria. Bene. E all'aeroporto di Bologna si collegano moltissime città nel raggio di 150-200 km con navette decisamente frequenti, veloci, molto, diciamo, di livello europeo. Ecco, questo è molto importante. È chiaro che è importante che l'aeroporto non sia un'oasi in un deserto. Ecco, è importante che l'aeroporto sia ben collegato, sia ben tenuto, ben manutenuto e come devo dire, ben gestito. Sì, devo dire, ho visto anche dei progressi in alcune, penso anche Venezia, molto investito, per carità. L'ultima domanda che ho per lei riguarda invece settembre, perché settembre, proprio nella logica di una stagione più lunga, è un mese importantissimo. Come stanno andando le prenotazioni? Dunque, le prenotazioni a noi danno la sensazione che ci sarà anche qui un minimo, un piccolissimo aumento. A noi il segno più piace molto, perché fa molto morale, anche se è un più uno, a noi piace moltissimo questa cosa, perché stiamo invertendo un pochino la tendenza e quella sorta di alea così un po' negativa che diceva ma il paese è in affanno. Sicuramente non abbiamo risolto tutti i nostri problemi, ma l'arrivo di turisti, soprattutto stranieri, ci mette nelle condizioni di dare il meglio di noi stessi, cioè di fare vedere il meglio, perché come dicevamo prima, dobbiamo massimizzare questo momento fortunato, importante e positivo che abbiamo da parte di tutti i paesi stranieri nei confronti del nostro paese. Non perdiamo l'occasione, e non ultimo il fattore umano, quindi un ritorno a un turismo più umano, con meno numeri ma più rapporti personali, perché tanto il lusso nei prossimi anni sarà quello dei rapporti umani. Noi su questo stiamo lavorando moltissimo, sì, perché gli imprenditori si evolvono. Infrastrutturale, guardate che mi scrivono anche molti da Salento, che è un'autentica impresa, volo su Brindisi, diciamola tutta presente, io la saluto e la ringrazio, però un paese diverso, con il boom che ha avuto il Salento grazie agli stranieri, grazie alle nozze, diciamo, da copertina, grazie alla bellezza del luogo, alla capacità anche dei locali di creare un elemento attrattivo, l'aeroporto di Brindisi sarebbe diventato un aeroporto, diciamo, stracarico di voli e saturo di voli a partire dai charter, low cost e quant'altro, non un aeroporto, diciamo, secondario in Puglia. Però poi lì nascono le rivalità, e questo è sempre il paese dei campanili. Tanto so che è d'accordo con me, perché insomma, lei non gestisce l'aeroporto di Brindisi. Grazie quindi su questo, nella speranza poi che lei abbia ragione sui dati di settembre, a Filippo Donati, presidente di Assotel di Confesercenti. Vedo che alcuni mi chiedono al 349-238-6666 dove sono cresciuti come località. In effetti ho dato la distribuzione geografica, ma non quella per località. Allora, le località marine hanno fatto più 3,5%, ma addirittura più 6% sugli stranieri. Le località lacuali, ma non si doveva dire lacustri, lacuali, la quali hanno fatto più 4,4% nei prenotamenti e più 5% gli stranieri. Le località termali invece soffrono, meno 0,6% gli italiani, ma sappiamo che le località termali delle volte sono anche antistagionali. Però le località montane hanno fatto un ottimo dato sulla presenza straniera, più 7% quasi, anche l'italiana va bene, più 2,2%, campagna collina più 2,6% con un più 4% del mercato estero, e le località di interesse artistico e storico, quelle che molto avevano tenuto e che erano cresciute in questi anni, hanno avuto una crescita più bassa, più 4,7% gli stranieri, più 1,2% gli italiani. Andiamo sulla borsa, prima di passare al meteo, buonanotte, al meteo, alla pubblicità. Meno 0,24% la chiusura di Milano, meno 0,70% Parigi, più 0,20% Francoforte, E poi il Dow Jones meno 0,60, Londra meno 0,50%. Ne parliamo dopo meteo e pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Non piacciono le nuove musiche? Beh, adesso ne avremo delle altre basi musicali dopo il meteo. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. Focus Economia. Soy el fuego que... Allora, vedo molti messaggi che riguardano anche il Salento. Qualcuno mi scrive dov'è che l'aeroporto di Brindisi. L'aeroporto di Brindisi è uno sgabuzzino. Adesso non vorrei dover passare il pomeriggio con l'ufficio stampa dell'aeroporto di Brindisi. Diciamo che è piccolo, diciamo che per il boom che ha avuto il Salento, che non ha seguito il boom del Salento. Lecce è collegata con niente, un autobus ogni due ore, sono le 18. Sì, devo dire che i collegamenti per chi non ha i soldi da spendere per i taxi sono obiettivamente indegni, ma da Catania per andare a Milazzo, per andare alle Eolie, perfino sono sballati gli orari rispetto a quello che trovi su internet. Cioè, invece che partire alle 15.40 parte alle 16.50, cioè 22. Insomma, sembra tutto fatto per diciamo rendere un'avventura il viaggio e non diciamo il luogo in cui arrivi. E questo è quello, però non possiamo dare la colpa di questo agli albergatori, almeno non di questo. Questo è un problema di infrastrutture, di enti locali, di società che non dialogano con gli albergatori, con chi fa ricezione. Non è che siano gli albergatori a non volere i collegamenti o dei collegamenti più accessibili a tutti e non solo a chi ha un capitale da investire. Andiamo alla borsa dei conti del Sole 24 Ore, ho già detto in apertura. Andiamo invece ai temi di oggi, che vedono sì le tensioni geopolitiche, ma con reazioni molto molto ordinate, devo dire. Lo ricordavamo anche all'inizio programma, nessun panico, ma neanche l'accenno al panico. Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Dunque, al di là appunto di qualche tensione, oggi abbiamo visto un risveglio del petrolio e il WTI oggi è cresciuto. Il WTI è il petrolio del Texas, il riferimento europeo invece è il Brent. Comunque il WTI è fatto più 3% a $48 al barile, Andrea. Sì, un risveglio del petrolio che ha portato appunto il WTI ai massimi delle ultime due settimane e il Brent ai massimi da maggio. Questo è legato un po' al nervosismo che c'era stato sul petrolio per quanto riguarda il passaggio dell'uragano, poi Harvey, poi declassificato a tempesta, perché sta riprendendo la piena attività delle raffinerie e delle industrie texane, quindi aumentando la domanda sta portando, diciamo così, a un alleggerimento della tensione, quindi riportando in rialzo i prezzi del barile, e questo si è avuto riflessi anche sui titoli delle società petrolifere. Non a caso a Milano le vendite sui bancari sono state compensate dai petroliferi come Saipem, come Tenaris, che hanno guadagnato il 3%, e anche dall'Eni, che ha guadagnato lo 0,5%. Questo ha permesso di compensare le vendite sui bancari e di portare l'indice FTSE MIB sostanzialmente vicino alla parità sul finale, con una flessione dello 0,2%. Sì, appunto, Tenaris più 3,20, Saipem più 3,20, e siccome Eni pesa molto sul listino più 0,45, è uno dei motivi per cui Milano oggi perde lo 0,20, mentre Parigi lo 0,70 e altri di più, cioè ha controbilanciato. Tu ricordavi le banche: Banco BPM meno 2,30, UbiBanca meno 2,16, Unicredit meno 1,80, Mediobanca meno 1,70, Finecobanca meno 1,60, Biper meno 1,50, Unipol meno 1,1%, Intesa meno 0,70%. A proposito di banche, dopo il traffico parleremo anche della Cassa di risparmio di Genova, che si è oggi distinta in borsa, e non solo. 349-238-6666 per sms e whatsapp. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta Focus Economia. Soy el fuego que... Di nuovo in diretta, no, mi scrive un ascoltatore: gli stacchi musicali di prima erano una schifezza, quelli di adesso invece anche. Allora, al di là dell'italiano, insomma, vabbè, almeno ci riconosce una certa coerenza, mettiamola così. Andrea Fontana, andiamo a altri titoli, partiamo dalla Cassa di Risparmio di Genova. Sì, si è mosso in controtendenza rispetto alle banche, ha guadagnato quasi il 2%, è iniziato con settembre un mese importante che porterà non solo a passi in avanti importanti sulle dismissioni, questa settimana attese le offerte per la sede di Milano che dovrebbe portare a una plusvalenza intorno ai 50 milioni di euro, ma soprattutto finirà con l'aumento di capitale. E ieri sera da questo punto di vista c'è stata una novità importante, perché il primo azionista, Malacalza Investimenti, ha fatto introdurre nell'ordine del giorno dell'assemblea la richiesta di un aumento di capitale che sia solo in opzione agli azionisti. Cosa vuol dire? Che non ci sarà un aumento di capitale che possa essere riservato e sottoscritto da un investitore terzo che non faccia già parte dell'azionariato, e questo in qualche modo tutela la possibilità per l'azionariato e per gli azionisti attuali di partecipare o meno all'aumento di capitale, quindi eventualmente, se non vogliono, anche di vendere i propri diritti di opzione. Questo ha permesso al titolo di guadagnare il 2%. Andiamo sui migliori e peggiori. Oggi su Caltagirone Editore è andata esattamente all'opposto di come stava andando l'intera giornata, ossia Lotto Volante. Prima cresceva moltissimo, oggi è il peggior titolo, ha perso l'8,40% a 1,37 euro. Siamo a due giorni dalla chiusura dell'offerta pubblica d'acquisto lanciata a un euro dal gruppo Caltagirone. Il titolo negli ultimi due giorni ha guadagnato il 25%, oggi sono scattati i realizzi. Perché aveva guadagnato il 25%? Perché diversi fondi di investimento hanno preso posizione, considerano troppo bassa l'offerta di un euro per azione e puntano su un rialzo, oppure, diciamo così, sul fallimento dell'offerta, cioè che l'offerta non porti a raccogliere abbastanza titoli da ritirare il titolo Caltagirone Editore dal listino. Questo ha fatto sì che il titolo balzasse fino a 1,5 euro per azione ieri, oggi sono stati un po' di realizzi, ma si aspetta il responso degli ultimi giorni, l'OPA si chiuderà venerdì 8 settembre. E invece sul fronte opposto, Visibile Editore più 12,30, Neurosoft più 10%, Poligrafici Printing più 6,80, Invest più 6,80. I Mac, tra chi ha perso invece oltre la Caltagirone Editore, EMS meno 7,90, IMS meno 5,40, Full Six meno 3,60, Industria e Innovazione meno 3,55%. Vorrei chiudere su Telecom. Poi nella seconda ora del programma affronteremo il tema del ritorno in borsa di Pirelli. Ma Telecom Italia, che nell'ultimo mese, se ho ben visto, ha ceduto non, diciamo, in una seduta o in sedute drammatiche, ma lentamente è arrivata a perdere quasi l'11%. Esattamente, il tema del cosiddetto golden power, cioè i poteri speciali che il governo potrebbe esercitare per obbligare Telecom a non mantenere in mani straniere, quindi cioè del suo azionista Vivendi, alcune attività strategiche come innanzitutto la rete di linea fissa, costituisce un elemento di incertezza che non si è ancora risolto, perché il gruppo di coordinamento di Palazzo Chigi deve ancora dare il responso e non ancora concluso il suo lavoro, lo farà probabilmente a metà settembre. Questo continua a costituire un elemento di incertezza su quelle che saranno le mosse del governo e le risposte di Vivendi, nell'attesa che poi nelle prossime settimane avvenga anche la nomina dell'amministratore delegato nuovo di Telecom, dopo un iter che, ricordiamo, portato prima dell'estate all'uscita di Flavio Cattaneo e che adesso dovrebbe portare alle nomine del nuovo amministratore delegato. Su questa c'è, diciamo, un po' meno tensione, ma sul rapporto tra Vivendi e il governo italiano ancora non c'è chiarezza e il titolo continua a scivolare in borsa. Eh sì, e lì la partita è molto complicata. Noi abbiamo avuto ospite il ministro delegato di Enel ad Acernobbio, che ha detto: noi non siamo interessati a entrare in un'ipotesi di gestione congiunta con TIM, andiamo avanti con Open Fiber per quello che ci riguarda. Insomma, e su questo la situazione, la partita, come abbiamo spiegato molte volte, è sì direttamente Telecom, cosa succederà di Sparkle e quant'altro, ma riguarda anche Mediaset, nel senso che poi, come chiesto dall'Authority, Vivendi deve decidere se tiene quella quota in Mediaset o tiene quella quota in Telecom, non può tenerla in tutti e due, e qui la partita si fa più complessa. Grazie intanto anche ad Andrea Fontana, Radio Core, Il Sole 24 Ore. Allora, mi fate notare che non ho dato l'euro su dollaro, 1,19, oggi altri continuano a scrivere dei mancati servizi di collegamento, qualcuno mi fa notare che anche alla Malpensa l'ultimo autobus per andare in città è alle 23, e chiaramente, adesso ho perso il messaggio, ma Milano Malpensa delle 23, l'ultimo treno. Non ci sono collegamenti, treni fino alle 5 di mattina, e certo, insomma, è l'alternativa: o spendi più di 100 euro in taxi o dormi in aeroporto. Però ripeto, qui non è un problema dell'offerta turistica, che ha pure i suoi problemi, alberghiera, ristorazione e quant'altro, è un problema di infrastruttura. Andiamo su GR24, poi parliamo di Pirelli e delle tensioni nordcoreane. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Popolo dei già svegli, dei lavoratori, dei pensatori desti con il sorgere del sole e degli incolonnati vigili nel traffico delle metropoli. Sono Luca Telese. Vi aspetto con la rassegna stampa, le grandi opinioni, le interviste che fanno pensare. Non mancate. 24 mattino, tutti i giorni alle 6.30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da... Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. Focus Economia. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo adesso della Pirelli. Poco fa l'amministratore delegato della Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi, durante l'Italian Equity Week, ha detto che aspettiamo la quotazione di Pirelli, che sarà la più grande in Europa e che avverrà ad ottobre. Vedo ancora molti messaggi al 349-238-6666 sul tema del turismo, dei collegamenti. Qualcuno mi scrive: ma i collegamenti per le eolie vanno bene così come sono? C'è già troppa gente. Vabbè, allora basta. E chi lo stabilisce quando c'è troppa gente? E soprattutto, quello di cui stavamo ragionando non sono le presenze ad agosto, ma quello che va sotto il tema di allungare la stagione, cioè guadagnare anche a settembre, ottobre, visto il clima, e magari anche a maggio, giugno, per non avere una logica anni 70 o 80 che tutta la stagione si deve concentrare ad agosto con prezzi stellari e quant'altro. Comunque, se uno ritiene che ci sia già troppa gente, vabbè, poi non si lamenti. La Pirelli torna in borsa, dicevamo, torna a Piazza Affari, ha presentato formalmente domanda di ammissione alla quotazione Borsa Italiana, un'offerta pubblica in Italia, un collocamento istituzionale, sarà Marco Polo International, che attualmente detiene il 100% del capitale sociale, a mettere in vendita le azioni fino a una quota del 40%. Ricordo che il capitale sociale di Marco Polo è detenuto per il 65% da una controllata di ChemChina e per il 22% da Camfin, che è controllata indirettamente da Marco Tronchetti Provera, e poi c'è un 12,60% partecipata anche da Unicredit Intesa San Paolo, poi il 12,60% dai russi di Long Term Investment Luxembourg. Pirelli è stata tolta dal listino nel novembre del 2015. Chiedo a Marigia Mangano del Sole 24 Ore. Buonasera Marigia. Buonasera. Come mai, intanto chiariamo perché dopo essere stata delistata quasi due anni fa, adesso Pirelli vuole tornare in borsa? Beh, Pirelli due anni fa è stata delistata principalmente per avviare anche un percorso industriale che l'ha profondamente trasformata, nel senso che oggi la nuova Pirelli che si ripresenta agli investitori è un gruppo che è concentrato sulle gomme auto e moto di alto livello. Tutta la parte industrial è stata invece ceduta al gruppo cinese, a Chem China, un veicolo controllato dal gruppo cinese, è partecipato anche con una quota della stessa Pirelli. Quindi il gruppo che torna a piazza affari è un gruppo che ha cercato di estrarre valore dopo un percorso iniziale che vedremo ora. Marigia, ti sentiamo male, scusami. Sì. Prego. Eccoci, no, dicevo, il gruppo che torna ora in borsa è un gruppo industrialmente profondamente diverso da quello che l'ha lasciata e il cui valore lo stabilirà evidentemente il mercato il 4 ottobre, una data su cui c'è tantissima attesa appunto per questa operazione. Un gruppo diverso perché dicevi più concentrato sulla parte, diciamo, storica del... Sì, sulle gomme auto e moto di alto livello, la parte invece industrial è tutta stata ceduta a una controllata del partner cinese, che poi non è altro che anche il principale socio della stessa Pirelli. Ecco, per quello che riguarda il valore, adesso la forchetta si avrà, ma quale potrebbe essere la forchetta di prezzo per il collocamento? Ma ci sono comunque diverse stime, valutazioni, è difficile fare delle previsioni, si va dalle stime per esempio di Mediobanca che vanno da 8,5 a 9,7 miliardi, che significa tra 8,5 euro a 9,7 euro, a delle stime un po' più conservative tipo Banca IMI tra 7,6 e 8,7 miliardi. E anche Unicredit invece un po' più conservativa oscilla fra i 5 e i 7 miliardi, quindi comunque la valutazione per ora non è chiara, così come ancora non sono del tutto chiare le quote che verranno post, diciamo, degli attuali soci di Pirelli post offerta pubblica di vendita. L'unica certezza è che il gruppo cinese dovrebbe scendere fra il 45 e il 50, anche se l'attesa e che scende al 45, così come che Scanfin vada a dimezzare, più che dimezzare la propria quota, dal 22,4 intorno al 10, e mentre i russi di LTI dovrebbero scendere al 5% circa del capitale. Questa è più o meno la struttura, però vedremo evidentemente quando saranno quando si avrà il dettaglio del prezzo scelto da forchetta ufficiale e poi prezzo scelto per il collocamento. E a livello, diciamo, di... Scusami, non ho capito la domanda. No, dico, quando si avrà la notizia della forchetta ufficiale e poi del prezzo cui verrà collocata? In prossimità appunto della PO il 4 ottobre. Allora, per quello che riguarda il bilancio, ricordo che nei primi sei mesi del 2017 il gruppo Pirelli ha registrato ricavi in crescita del 10% a quasi 2 miliardi e 700 milioni di euro. Utile netto a 67,6 milioni, che si veniva da una perdita nel 2016 e a partire dal bilancio 2018 la società prevede di distribuire in dividendi il 40% dell'utile netto, del risultato netto consolidato. Grazie anche a Marigia Mangano del Sole 24 Ore. Allora, vedo che qualcuno mi dice: ma forse dovete andare voi giornalisti alle Eolie in aprile, maggio, ottobre? No, Enzo, se vuol far polemica, il tema è che le località turistiche che funzionano di più anche all'estero sono quelle che, ripeto, allungano la stagione. Non ci devo andare io ad aprile, maggio, ottobre, ma magari molti stranieri che non hanno l'agosto come unico periodo di riferimento per le vacanze e hanno un'altra distribuzione ci possono tranquillamente andare a settembre, ottobre e anche a maggio. Vabbè, da un tema comunque positivo, perché i dati, come abbiamo ricordato, sul turismo erano tutti in crescita, su tutte le località, in tutte le aree geografiche e appunto soprattutto con gli stranieri, andiamo ai cosiddetti War Games, come li stiamo chiamando. In realtà di Games c'è molto poco, di War rischia di esserci tantissimo, perché sabato scorso appunto la televisione nordcoreana ha confermato che la Corea del Nord ha testato una bomba a idrogeno, il più potente di sempre, la più potente di test, il sesto, il più potente da sempre. Gli aggiornamenti da oggi, ma insomma, se non fosse da aver paura, ci sarebbe quasi da ridere, perché l'ambasciatore di Pyongyang presso la sede ONU di Ginevra, che si chiama Han Tse-song, ha detto: gli Stati Uniti riceveranno altri pacchi regalo dal mio paese fino a quando faranno affidamento su imprudenti provocazioni e futili tentativi per mettere pressione sulla Corea del Nord. La Corea del Nord starebbe trasportando verso la costa occidentale un razzo che sembrerebbe essere un missile balistico intercontinentale, lo riporta l'Asia Business Daily, testata però sudcoreana. Le operazioni sarebbero iniziate ieri con lo spostamento in programma solo di notte per evitare la sorveglianza dei satelliti spia, e l'intelligence di Seoul mette in guardia dai rischi di un nuovo test nucleare che potrebbe avvenire il 9 settembre, che è l'anniversario della fondazione dello Stato, o il 10 ottobre, giorno della nascita del Partito dei Lavoratori. Allora, poi le reazioni più nuove sono arrivate dalla Francia, dove la ministra francese della difesa Florence Parly ha detto in un intervento di fronte ai militari a Tolone i missili nordcoreani potrebbero essere in grado di raggiungere l'Europa prima del previsto. Il presidente russo Vladimir Putin, che ha detto il conflitto può portare a una catastrofe, nuove sanzioni contro la Corea del Nord sarebbero futili e inefficaci, e visto che Pyongyang ha armi atomiche un conflitto potrebbe portare a una catastrofe globale. Putin è convinto che insistere sull'isteria militare per risolvere il problema sia senza senso, sia un vicolo cieco. E sulla stessa linea anche la Cina, che dice la soluzione militare non è tra le opzioni. Questa continua a essere la posizione cinese, lo ha riferito oggi di nuovo il portavoce del ministro degli esteri Geng Shuang. La strada da seguire è quella del dialogo e delle consultazioni. Nel frattempo la Corea del Sud ha avviato un ciclo di esercitazioni, manovre militari e soprattutto esercitazioni navali. Dureranno 4 giorni, partiranno domani. Oggi c'è stato un primo dispiegamento. Angela Merkel ha detto: l'Europa è una voce importante, ha una voce importante nel mondo, deve sfruttarla, deve usarla. E questo insomma per quello che riguarda le varie dichiarazioni, dove si conferma, ma ne parleremo dopo il traffico, una posizione molto molto terza di Cina e Russia, cioè non danno né torto a Nord Corea, tendono a dire che l'escalation è da parte di entrambe, e insomma stanno giocando una partita in cui l'unica soluzione sembra essere continuare a dialogare. Io mi rendo conto che dialogare con un regime come quello di Pyongyang, che insomma non si capisce da dove dovrebbe arrivare il dialogo, però dopo il traffico vorrei chiederlo a chi da sempre studia dinamiche e tensioni di carattere geopolitico, con Cotè, che poi può avere anche sul fronte economico. Abbiamo visto oggi un rialzo, lo raccontavamo, di tutte le commodities, di tutte le materie prime, non drammatico, si è tornati a livelli settembre 2016 o ai massimi da 6 mesi, però non drammatico ma indistinto, nel senso che sono salite sia le quotazioni dell'oro, che appunto del nickel, del rame, del palladio, dell'argento e del platino. Dopo il traffico, l'analisi. Il mio piatto migliore. Quello grande per le pizze Roncadin. Roncadin nel banco freezer. Vi presento Focus Economia. Roketto, 완전 상강. 조선노동당의 전략적 핵무력 건설 구상에 따라 우리 핵과학자들은 9월 3일 12시 우리나라 북부 핵시험장에서 대륙간 탄도로켓 장착용 수소탄 시험을 성공적으로 단행하였다. Tutto chiaro, no? Nel senso, in realtà era l'annuncio della TV nordcoreana che con molta enfasi, almeno quella si capiva, in grande entusiasmo, applausi, abbiamo visto i generali attorno al posso chiamarlo dittatore, come cavolo devo chiamarlo, della Corea del Nord esultare, anche perché lì se non esulti fai una brutta fine, altro che articolo 18. Vittorio Emanuele Parsi, politologo e insegna relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, buonasera. Buonasera a voi. Parsi, io devo, sarò banale, ma devo rifare la domanda che sto facendo da un po' di giorni, di settimane, due settimane. La posizione, balzano agli occhi due cose, la posizione assolutamente, non dico pilatesca, ma quasi, di Cina e Russia, no, la soluzione militare non è il problema, basta con questa, cos'è che ha detto oggi, basta con questa isteria militare, dice Putin, che non distingue tra posizione giapponese, statunitense e posizione nordcoreana. E uno potrebbe dire sì, tutto bene, per carità, siamo tutti d'accordo che la via diplomatica sia quella da preferirsi, ma i test nucleari non li stanno facendo né il Sud Corea, né il Giappone, né gli Stati Uniti nei confronti dell'area nordcoreana, li sta facendo Pyongyang. E quindi è un terzismo, a mio avviso, una terza posizione un po' pelosa. E dall'altro continuiamo a non capire se tutto questo faccia parte di una tattica molto, molto spinta, molto rischiosa, molto azzardata, ma per arrivare poi al tavolo delle trattative con una posizione di forza, mi riferisco a Pyongyang, oppure se qui veramente l'opzione ultima venga presa in considerazione. Allora, io direi che nessuno ha un interesse a scatenare un conflitto e credo che neanche Pyongyang abbia un interesse a scatenare un conflitto. Però detto questo, il problema è che esistono degli interessi, diciamo così, subottimali, parziali, che sono molto netti, che sono quelli che spiegano quella che lei definiva la posizione pilatesca di Russia e Cina, che in realtà è tutt'altro che pilatesca. Perché i cinesi e i russi cosa fanno? I cinesi in particolare, che sono tra i principali responsabili del punto che siamo giunti, perché sono il paese che fino adesso ha nicchiato, per così dire, sulle regime delle sanzioni, sono il paese che le ha applicate con estrema riluttanza. Alcuni giorni fa, se vi ricordate, c'è stato un contenzioso tra Washington e Pechino, perché Washington ha sottoposto a sanzioni delle società cinesi proprio perché commerciavano oggetti proibiti, diciamo così, con la Nord Corea, la Cina reagendo malamente. Il punto è che per la Cina l'interesse migliore, la soluzione migliore in questo momento è che la crisi vada avanti e che si dimostri l'incapacità degli Stati Uniti di proteggere i propri alleati anche di fronte a una minaccia grave come quella nucleare. Questo sarebbe un colpo durissimo per l'immagine degli Stati Uniti nell'Asia orientale e sarebbe una mossa che consentirebbe alla Cina di avanzare invece la sua posizione come la potenza che è emergente e che in qualche modo potrebbe tenere a bada il Nord Corea. Perché parliamoci molto chiaramente, i cinesi non possono patrocinare una soluzione in cui l'America esca come quella che ha bloccato questa crisi e contemporaneamente però gli americani non possono tollerare che la Cina sia lei a trovare una soluzione che passi per esempio dalla sospensione delle manovre congiunte tra Sud Corea e Stati Uniti. Capisce che sarebbe come se lei volesse uscire dalla crisi con la Russia imponendo ai paesi della NATO di non fare più manovre con gli Stati Uniti, perché di questo stiamo parlando. Quindi sono questi interessi di potenza, questi interessi politici molto netti, molto chiari, che rendono difficile poi articolare la soluzione. Tutti hanno interesse che la guerra non scoppi, però bisogna fare molta attenzione perché non a qualunque costo, per così dire. Però in questa sua descrizione Pyongyang diventa una pedina, nel senso per la Cina soprattutto, per da un lato, se tutto va bene, dimostrare che ormai la superpotenza dell'area è la Cina, non più l'ombrello americano sul Pacifico, e dall'altro per non perdere la faccia e non dimostrare che gli Stati Uniti ancora sono il dominus delle soluzioni. Due domande. La prima, sì, la pedina la puoi utilizzare se hai a che fare con un dittatore che ti ascolta. Siamo sicuri che chi governa in Nord Corea poi si faccia trattare come una pedina, perché molti nutrono anche dubbi sull'affidabilità così quasi psicologica della Nord Corea. La seconda invece riguarda la Russia, perché capisco benissimo il suo ragionamento sul ruolo che la Cina ha con la Nord Corea, che voglia essere lei a gestire quantomeno la soluzione finale di questa vicenda e quindi l'accordo. Ma la Russia che interesse ha? Perché la Russia potrebbe anche avere un interesse nel non portare alle estreme conseguenze questa situazione. Beh, allora, diciamo così, la Russia. La Russia in realtà in questo momento sta spalleggiando i cinesi, perché i russi con i cinesi hanno questo obiettivo comune di indebolire gli Stati Uniti, che in questo momento sono già deboli per tanti motivi, per la presidenza Trump, per quello che già tutti sappiamo. Non è che i russi non avrebbero un vantaggio dal dare un altro colpo agli Stati Uniti in Estremo Oriente dopo quello che gli hanno dato in Medio Oriente, non dimentichiamocelo. Perché i russi e i cinesi su questo viaggiano di conserva. Gli interessi cinesi con l'interesse russo non sono lo stesso, ma sono, possono viaggiare in parallelo in questo momento. Ed è quello che rende la Cina così baldanzosa. Io non escluderei la proposta all'ultimo momento di una mediazione russa che di fatto alla valle cinese. Esatto. Cioè, ultima domanda. Certo, non ho solo una cosa su quelli sulla Nord Corea. Certo, la Nord Corea non è una pedina. La Nord Corea ha la sua politica. La Nord Corea sta cercando di portare a casa risultati con questa minaccia continua dell'atomica. E fino adesso ha avuto ragione. Cioè, il problema vero con la Corea del Nord è che questo atteggiamento che noi descriviamo come irrazionale, in realtà, dal punto di vista dei risultati conseguiti, è stato più che razionale. Rischiosissimo, ma non irrazionale. Un azzardo, ma ragionato, mettiamola così. Un azzardo ragionato. Ultima domanda, Parsi. In realtà, la posizione degli Stati Uniti, perché c'è chi ha scritto, penso a Fiamman Einstein, attenzione, questa è la conseguenza della non azione, inazione di Obama, che ha permesso che il bubbone nordcoreano crescesse. E c'è chi dice invece, no, guardate che il caos che regna nell'amministrazione americana, non si, i continui cambi diciamo nello staff di Trump e questo suo, e il non capire quanto faccia sul serio, quanto sia diciamo continuativo nelle sue azioni, hanno aumentato la forza della Nord Corea, che è mostrato insomma una difficoltà di Trump. È più d'accordo con la prima, con la seconda, o sono vere tutte e due? Ma no, direi che innanzitutto l'amministrazione Trump sicuramente non è che stia brillando per concentrazione su questo, possono esserci interessi di Trump anche a distrarre, per così dire, l'opinione pubblica interna, tanto di pasticci in cui si è infilato. Però, a onor del vero, va ricordato che è dai tempi di Bush padre che stiamo cercando di trattare questo problema, perché rimonta ai tempi di Bush padre, e hanno provato diverse amministrazioni, Bush padre, Clinton, Bush figlio, e adesso Obama, e adesso Trump, provando bastone, carota, partetti, trattative, addirittura aiuti economici alla Corea per tirarla fuori dalla da crisi in cui si è infilata. Per cui direi che, ripeto, senza voler minimamente assegnare un voto positivo all'amministrazione Trump per tanti motivi, però su questa crisi, questa è una crisi che ci teniamo dietro dalla fine degli anni Ottanta sostanzialmente, non dimentichiamo, cioè sono vent'anni che abbiamo questo problema e tutte le soluzioni diplomatiche hanno portato a nulla. Che non significa che allora bisogna tentare l'opzione militare, ma dire che non è sul tavolo, escluderla del tutto, questa è una sciocchezza. Lei capisce che se la Nord Corea fa un errore di calcolo e provoca gli Stati Uniti, a quel punto gli Stati Uniti reagiscono, questo è inevitabile. Grazie anche a Vittorio Emanuele Parsi, grazie, appunto docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Le 18:29 finisce qui la puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. Libera la voglia di fare.